con Francesca Fini, regista del film Hippopoetes. Francesca, ben trovata. Presentacelo. Ciao. Allora, Hippopoetes è un film, non a caso poi fa parte comunque dei film scelti da Adriano proprio per fuori norma. È un film veramente fuori norma. È un documentario che racconta la storia di questa scrittrice, questa poetessa minore del movimento imagista americana di fine 800, Amy Lowell. Però lo racconta nella maniera mia, cioè con un linguaggio ibrido che mescola la performance art all'animazione 2D, 3D, con linguaggi assolutamente diversi dal meme di internet al linguaggio e alla grafica del gossip, creando del finto found footage con delle vecchie fotografie animate. Insomma, è un film abbastanza ibrido e, se vuoi, psichedelico, abbastanza folle, ma in qualche modo la linea fondamentale del film è il racconto della storia di questa donna ed è l'aspetto forse più meno noto e che in qualche modo mi ha colpito di più, cioè il bullismo estetico a cui era sottoposta nella cerchia di poeti che frequentava, che erano tutti uomini e che la prendevano in giro perché era grassa e la chiamavano appunto Hippopoetes, ovvero poetessa ippopotamo. E questa, diciamo, storiografia questo episodio da storiografia della spazzatura, se vogliamo chiamarlo così, è invece ha innescato in me una serie di ricordi anche. Sono stata bullizzata pesantemente quando ero giovane, quando ero molto giovane, diciamo, moltissimi anni fa, quando andavo alle medie al liceo, perché tendevo un po' a ingrassare. E sono stata bullizzata perché ero la prima della classe, perché ero antipatica, perché ero una persona sicuramente scostante, come lo sono tuttora, il mio carattere. E quindi non partecipavo, diciamo, ai rituali tradizionali, trovo molto stupidi dei miei compagni, e per cui venivo chiaramente messa da parte. E quindi mi sono molto identificata con questo personaggio, che in qualche modo poi diventa uno specchio in cui io mi rifletto, perché è un artista, perché è una donna ambiziosa e perché è stata, diciamo, bullizzata dall'entourage maschile che frequentava. Sì. Elementi che mi caratterizzano molto. L'idea com'era partita? Allora, l'idea è veramente stato un caso. Io ho trovato la biografia, ho incontrato la biografia di questa poetessa, perché tutto il mio lavoro è sul femminile, Sì. ma visto in maniera non, diciamo, vittimistica, non politicamente corretta. È un femminile anche grottesco, in cui io metto in evidenza sia i difetti che i pregi della femminilità, no? Che poi sono quello che io vedo dentro me stessa. E quindi navigo in rete, compro libri sulla femminilità e soprattutto sono ossessionata dalla poesia femminile. E quindi io faccio ricerche sulla poesia femminile, sulla letteratura e sulla scrittura femminile. No, ti seguo. E quindi ho incontrato casualmente la biografia di questa poetessa. Ho letto una sua poesia e non la conoscevo assolutamente fino a poco tempo fa. Fino a prima di imbarcarmi in questo progetto non ne sapevo nulla, perché lei è stata schiacciata anche dalle figure prorompenti del movimento di cui faceva parte. Uno tra tutti è Ezra Pound, no? Sì. Che era anche quello che in qualche modo aveva adottato questa modalità diciamo, di bullismo nei confronti della Lowell. E gli piaceva, a Ezra Pound piaceva molto Hippopoetes, chiaramente, perché di fatto è comunque divertente come diciamo, invenzione anche letteraria. E quindi è stata schiacciata un po'. In realtà è stata rivalutata successivamente. È una poetessa minore perché è meno conosciuta, ma in realtà le sue poesie sono straordinarie. E ha scritto tantissimo, una poetessa estremamente prolifica. Tutto il materiale su questa poetessa è nel pubblico dominio su archive.com, quindi .org, scusa, quindi si possono tranquillamente scaricare e leggere le sue poesie, che sono bellissime. E quindi l'ho incontrata casualmente, poi ho letto una poesia e mi è piaciuta, ho letto la sua biografia e lì mi sono completamente innamorata di questo mastino americano, bassotta, grassoccia, una specie di panzer, molto ambiziosa, estremamente, molto intraprendente. sorprendente, una prima, diciamo, una prima forma di imprenditoria femminile della cultura, che allora era praticamente sconosciuta, rappresentata da questo personaggio, che comunque veniva da una famiglia molto, molto ricca, anche molto consapevole culturalmente. Il fratello era presidente dell'università di Harvard, l'altro fratello era un astronomo che aveva scoperto i canali su Marte, insomma una famiglia particolarissima, che chiaramente ha infuso a questa donna anche una certa consapevolezza, nonostante la sua posizione per quell'epoca, di sudditanza rispetto al clan maschile della famiglia, no? Sì. E rispetto anche all'entourage maschile che frequentava. Invece era una donna molto consapevole, una femminista ante litteram sicuramente. Francesca, tornando al tuo lavoro, raccontiamo anche un po' la commistione dei linguaggi che usi. Io amo contaminare tantissimo i linguaggi, forse questo termine contaminare adesso è un po' così, un po' fuori moda, però a me piace molto mescolare le carte, ecco, sì. Diciamo così, nel senso che non e anche dipende anche forse da una mia tendenza alla psichedelia visiva, sì. E poi anche ho il fatto che comunque i linguaggi contemporanei sono assolutamente ibridi, perché noi facciamo dei montaggi nostri psichedelici semplicemente navigando su internet, passando da una parte all'altra, da un'animazione a una clip, a un pezzo di telegiornale, a un cartone animato, a una web series. Quindi diciamo che noi già abbiamo una vita, diciamo, visiva, una capacità di contaminarci, e quindi secondo me questo va anche portato nel lavoro. E poi perché sono i linguaggi che mi appassionano e per i quali cerco in qualche modo una fusione, e che sono quelli della performance, e non della performance attoriale, della performance vera, della performance art, nel fatto di metterti davanti a una videocamera con un'intenzione vaga e poi vedere quello che succede, quello che io faccio generalmente quando performo davanti alla videocamera, quando video performo. e poi invece mi piace dall'altra parte invece un linguaggio solamente costruito, per cui devi prevedere ogni minimo dettaglio, dallo script allo storyboard, addirittura allo storyboard visivo, che è l'animazione, per cui non puoi assolutamente fare errori, devi prevedere tutto. Sì, sì. Ci sono tempi di rendering infiniti e via dicendo, il linguaggio costruito, estremamente costruito, quindi cercare di mettere insieme questi due elementi è diciamo un'idea che mi appassiona. Sono, diciamo, le mie due anime, una estremamente complessa, articolata e costruita, e l'altra spontanea, che ama l'improvvisazione. In chiusura, Francesca, ci lasci i riferimenti web per questo appuntamento? Sì, allora, innanzitutto l'appuntamento è al Macro Asilo, al Museo Macro, questo nuovo progetto rivoluzionario per la città di Roma di Giorgio De Finis, quindi al Macro di Via Nizza, giovedì 4 alle 6, nella Sala Cinema. Le informazioni su questo evento si possono trovare su Facebook, sulla pagina di Fuori Norma e sulla mia pagina Francesca Fini, su Facebook. C'è un evento Facebook anche, comunque qualsiasi informazione è reperibile sul mio sito, che forse, diciamo, il riferimento più completo, semplice da ricordare, che è francescafini.com. Bene. Ippo Poetes, un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Fini. Francesca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto.